Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Nella notte è ripresa la trattativa a Bruxelles e non è chiaro come possa andare a finire, ma sembra evidente che i paesi europei vogliono arrivare ad un accordo, visto che l'incontro è stato riconvocato per le 16 di oggi e questo è già un buon segnale. I cosiddetti frugali presumibilmente otterranno una riduzione dei soldi a fondo perduto e un aumento dei prestiti, ma il vero punto di scontro, come ormai sappiamo, è il monitoraggio sulla spesa di questi fondi che l'Olanda vorrebbe rafforzato e che l'Italia rifiuta. Siamo qua, in attesa, e vedremo cosa succederà in questa giornata. Nessuna attesa invece per le partite IVA, le imprese, i professionisti, chiamati oggi a 51, dicasi 51 versamenti. Alla richiesta di rinvio al 30 settembre, per ragioni di cassa, il Ministero dell'Economia ha opposto un netto no. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci, buongiorno, sono le 6:31 minuti e 30 secondi, lunedì 20 luglio e si apre l'ultima settimana di questa stagione di 24 Mattino, poi ci fermiamo. Pausa estiva e torniamo il 31 di agosto. In tempo per raccontarvi il rush finale delle regionali per chi fosse interessato, non solo quello naturalmente. Sarò più completo alla fine di questa settimana, ma intanto grazie a tutti per averci seguito, ovviamente, per essere intervenuti. Potete farlo anche oggi al 349-238-6666. WhatsApp audio, SMS, WhatsApp scritti. Perché siete parte della nostra squadra, come Carmelo Lauricella che oggi è in regia, Miriam Lucchetti in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione insieme ad Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Margherita Ina e Francesco Saraffo, i nostri autori. Allora, come avete sentito in Europa si tratta, si discute e devo dirvi la verità, appunto, secondo me tutto sommato è una buona notizia perché vuol dire che si vuole arrivare ad un accordo. Come sarà questo accordo? Chissà. L'ultima proposta del Presidente del Consiglio europeo è di un... di aiuti a fondo perduto per 390 miliardi e il resto in prestiti. A chi già ci dice che Orbán, e ringrazia Orbán perché dice che è l'unico in Europa e con l'Italia, ricordo che Orbán sta giocando una partita sua, perché ricordatevi questo, in quest'ambito ognuno sta giocando una sua partita. E la partita di Orbán qual è? Il fatto che gli aiuti l'Europa li vuole legare anche al rispetto di alcuni criteri dello Stato di diritto. E l'Ungheria rischia di esserne fuori, così come la Polonia. E quindi sta giocando la sua partita, così come l'Italia gioca la sua partita. Perché i soldi li vorrebbe tutti, maledetti, subito e senza controlli. Così come l'Olanda sta giocando la sua partita, perché non vuole che qualcuno gli rompa le scatole su un regime fiscale agevolato e vuole essere certa che paesi come il nostro, che per inciso non ha presentato il piano spese e riforme, unico paese a non aver presentato il piano di spese e riforme in questo fine settimana, che paesi come il nostro spendano i soldi che gli vengono dati dall'Europa bene. Questo non è per dar ragione a Rutte, è semplicemente per dire che, signori, è una trattativa con molte parti in campo, con molte persone in gioco, con molti interessi in gioco, e quindi non c'è il bene e il male, c'è una trattativa nella quale, tra l'altro, i livelli di tensione si alzano perché si vuole arrivare ciascuno al risultato migliore e più accettabile per la propria opinione pubblica. Abbastanza normale, mi pare. Sentiamo Conte, va. Ma l'Italia innanzitutto non può accettare che questo programma possa essere compromesso nella sua efficacia, nella sua consistenza, e che diventi inutile per quanto riguarda la ripartenza del nostro paese, ma anche dell'Europa intera. Salvini dice: siamo in ginocchio dall'Europa col cappello in mano. Mi viene da pensare che siamo il paese più bello del mondo e se la smettiamo di andare in ginocchio in Europa a chiedere l'elemosina col cappello in mano, e se valorizziamo le nostre ricchezze, le nostre bellezze, la nostra cultura, il nostro mare, il nostro territorio, dalla Puglia a tutta Italia, non ce n'è per nessuno. Dover dipendere dai capricci degli olandesi o dei lussemburghesi è una roba che mi fa imbestialire. Un po' di burocrazia in meno, un po' di tasse in meno, abbiamo gli imprenditori, gli artigiani e i lavoratori più forti al mondo. Vabbè, un po' di... sta girando in questo periodo non solo da Salvini, a dire il vero, è un po' di retorica nazionalista. E Calenda, sentiamo. Noi possiamo essere convinti, Azione è convinta, che il governo stia facendo malissimo nell'uso dei fondi europei, nel non prendere il MES, persino nella rendicontazione che devono dare alla Commissione sull'utilizzo dei soldi per la cassa integrazione. Pensiamo che sia un governo confuso e incapace. Ma questo non toglie di una virgola che su questa battaglia noi siamo al 100% col Presidente del Consiglio italiano. E stupisce che gli europeisti, un pezzo degli europeisti di casa nostra, non capiscano che in ballo c'è l'Europa delle istituzioni contro l'Europa delle nazioni. No, voglio chiarire l'ascoltatore, non mi sono arrabbiato sulle persone che dicono che Orbán è dalla parte dell'Italia. Dico solo che Orbán sta giocando una partita sua, come la stiamo giocando noi. E come la sta giocando l'Olanda. Vedremo se si arriverà ad un compromesso e se questo compromesso sarà accettabile. Gli amici della redazione mi hanno... Queste clip audio che vi farò sentire adesso l'hanno titolate così: cose da non far sentire a Mark Rutte. E allora iniziamo da Vincenzo De Luca. Facciamo l'esempio più banale così ci capiamo. Siamo ancora il paese nel quale per fare il dragaggio, l'escavo della sabbia, occorre il parere del Ministero dell'Ambiente. Lei ha presente il Ministero dell'Ambiente, quelle stanze chiuse, gente che calcola, diciamo, le vicende della storia sulle epoche geologiche. E perché la mette così De Luca? Sentite qua, ancora. Ora, io mi sono sempre domandato, ho chiesto qualche volta a qualcuno del Ministero dell'Ambiente, ma ditemi, toglietemi una curiosità che non mi fa dormire, ma che cosa è questo? Cioè, voi prendete un secchio di sabbia dal fondo di un porto, la dovete portare in un laboratorio e dovete vedere se ci sono residui bituminosi, metalli pesanti. Questa operazione comporta un'indagine di 24 ore. Se no, spiegatemi che diavolo fate per due anni, un secchiello di sabbia. Due anni, un secchiello di sabbia. Ancora De Luca che racconta la cosa più incredibile di questa vicenda, del dragaggio del porto di Salerno. Sentite. Le devo dire che l'ultimo parere che abbiamo avuto nel porto di Salerno dopo due anni era di questo tipo: potete fare il dragaggio, ma la sabbia che prelevate dovete riversarla a 20 miglia dalla costa, ma per non più di uno spessore di 5 centimetri. Ora lei si domanderà, nei prossimi millenni, chi andrà a verificare se sono 5 centimetri? Ma siete dei dementi. Guardate che è stupendo, a 20 miglia dalla costa, lo ripeto ancora, riversare la sabbia con uno spessore di non più di 5 centimetri, a parte come fai a saperlo nel momento stesso nel quale la riversi la sabbia. Cose da non far sentire a Mark Rutte, ci sono anche le parole del presidente siciliano Musumeci. Ma come volete che io possa mettere 100 grammi di carne in più se la notte non si dorme, di giorno bisogna correre dietro 29 direttori generali, 13.000 dipendenti, dei quali l'80% assolutamente improduttivi? Ma non lo dite ai sindacati, non lo dite ai sindacati, improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E ora per giunta vogliono stare ancora a casa con il cosiddetto lavoro agile, ma se non lavorate in ufficio, come pensate di poter essere controllati a casa? E insomma, così Musumeci, non a caso i sindacati si sono imbestialiti su questa cosa. E insomma, ditemi un po' anche voi, ma secondo voi, alla fine, Rutte e gli olandesi e i frugali hanno proprio tutti i torti? C'è un po' da chiederselo. Cos'altro in questa giornata? Beh, sicuramente l'ingorgo fiscale. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi. Oggi è il giorno delle 51 scadenze. Il ministro Gualtieri, allora il vice ministro Misiani, che sarà ospite nostro tra l'altro alle 8:20, dice: no, guardate, non c'è storia, abbiamo già fatto una dilazione dal 30 giugno al 20 luglio, fino al 20 agosto si paga con una mora dello 0,4%, e noi abbiamo bisogno di sapere entro settembre, dato che dobbiamo elaborare il documento di economia e finanza, quanti sono gli incassi, e dobbiamo averlo per certo. Il ministro Gualtieri dice un'altra cosa che è curiosa, sentiamolo. Sarebbe dovuto avvenire con una norma, con un emendamento del decreto rilancio che non c'è stato, quindi era una notizia di alcuni giorni fa, oggi se ne parlano. Però anche il governo può presentare un emendamento al decreto rilancio, cioè una proposta di modifica, e chiedere la dilazione, quindi chissà come mai. Ha fatto discutere nel fine settimana, ha fatto discutere le parole della vice ministra Castelli, e rimaniamo nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sui ristoratori. È stata interpretata, è stata messa là come i ristoratori cambino mestiere. Ora, in realtà la Castelli non ha detto propriamente questo, anche se tutti i ristoratori si sono arrabbiati. Ha detto un'altra cosa, ha detto se cambia il rapporto tra domanda e offerta, cioè se non c'è più la stessa domanda di ristorazione, dobbiamo aiutare le persone che fanno questo mestiere a trovarsi un altro lavoro. Sentiamola. Bisogna aiutare le imprese, gli imprenditori creativi a muoversi sui nuovi business, che sono quelli che sono nati, perché ce lo possiamo dire, che sono nati diversi. Ma sono processi di lungo termine. Sono processi di lungo... Certo, l'emergenza, ma se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, bisogna aiutare l'imprenditore a fare un'altra magari attività, a non perdere l'occupazione, e va sostenuto anche nella sua creatività, che magari ha visto che c'è un nuovo business che può affrontare. Vi segnalo altri due fronti sui quali a naso si aprirà un po' di dibattito. Allora, il primo è quello dell'omicidio stradale. Oggi il Messaggero ci segnala che il ministro Bonafede sta pensando ad una modifica, poi ve ne do qualche dettaglio ulteriore in rassegna stampa. La proposta di Bonafede vuole introdurre altre aggravanti in caso di omicidio stradale. Qual è questa aggravante? L'uso del telefonino. L'idea è questa. Il cellulare può diventare un aggravante. Provocare un incidente mentre si sta al cellulare sarà un aggravante pari allo stato di ebbrezza. È una proposta che Bonafede vuole portare sul tavolo del governo. Vedremo cosa ne emergerà. E l'altro fronte è una delle cose delle quali parleremo tra un attimo dopo il traffico, è questa. L'idea arrivata, o meglio, la norma arrivata al Ministero dell'Istruzione, secondo la quale per l'anno prossimo, in questa situazione complessa di emergenza, i non laureati possano salire in cattedra. Traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Ormai Mark Rutte, vedo dai vostri messaggi, è diventato, non lo so, più divisivo di Salvini o di Berlusconi. Viva Rutte e i frugali, ci scrive Luca. Team chiavi alla Merkel, si firma. Altri dicono: gli olandesi, trafficanti di droga e paradisi fiscali, di cosa stiamo parlando? Ormai l'Olanda a metà tra l'essere la salvezza e il nemico pubblico numero uno. Buongiorno Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, bentornata ai nostri microfoni, eccoci. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, avete lanciato un allarme nei giorni scorsi, saranno 85.000 i posti vacanti all'inizio del prossimo anno scolastico e avete detto così non si riparte, ho capito bene? Sì, sì, 85.000 veramente sono un numero spropositato perché gli altri anni c'erano dei residui, ma quest'anno purtroppo subiamo gli effetti dell'impossibilità di assumere che abbiamo avuto anche negli anni scorsi e quindi si sono accumulati numerosi posti vacanti che hanno prodotto questo effetto. Abbiamo anche fatto una verifica per individuare quali possono essere le graduatorie ancora presenti, candidati possibili, più o meno si potrebbero individuare 10.000 posti circa, quindi avremo una differenza notevole. Sì, e su questo poi si accumuleranno i problemi, i tanti problemi che il Covid introdurrà. Ah sì, certamente, perché nel momento nel quale tu fai fare il sierologico, il test sierologico a personale docente e non docente, a tutto il personale docente e non docente, certo, devi mettere in conto che una parte di costoro risulterà positivo, dovrà rimanere in isolamento e quindi avrai presumibilmente degli altri buchi all'inizio dell'anno. Oltretutto, sì, la scuola prevede comunque delle sostituzioni, perché su quasi 80.000 posti vengono assunti i supplenti, perché tutta la partita purtroppo della disabilità viene affidata proprio per le procedure che la scuola ha individuato di posti in deroga, si definiscono, ci sono dei supplenti, quindi il numero dei supplenti che dovranno essere poi a loro volta anche tracciati con il prelievo sierologico è un numero spropositato. Se lo scorso anno superavamo più di 180.000, siamo arrivati ai 200.000, ma quest'anno sicuramente andremo molto al di là dei 200.000 con le variabili e le incertezze di cominciare un anno scolastico senza avere le condizioni e le misure di sicurezza. E quindi lì dove dovessimo i dirigenti dovessero individuare la necessità di sdoppiare, di riorganizzare, avremmo forse anche bisogno di ulteriore organico. C'è un'incertezza pazzesca, sì. Il ministero ancora non riesce a dare delle indicazioni certe, almeno su questi aspetti. Ascolti Gissi, c'è chi accusa in realtà proprio i sindacati, cioè dice questo, dice: voi state facendo resistenza e state facendo resistenza per un motivo molto preciso. I vostri iscritti hanno paura di tornare in presenza a scuola e di beccarsi il Covid, e quindi voi state rispondendo anche a questa esigenza dei vostri iscritti. No. Innanzitutto è stata definita in modo veramente poco corretto questa espressione di fare terrorismo, assolutamente no. Ci stiamo attestando alle questioni di natura sanitaria. Il Comitato Tecnico Scientifico ci ha investito proprio chiedendoci anche di valutare quali erano i problemi. Noi abbiamo posto loro delle domande, loro ci hanno anche risposto. Ci ha investito di una responsabilità, quella di individuare quali sono le misure che, diciamo, non solo le misure in termini di metro lineare, le condizioni per garantire a 7 milioni e mezzo di alunni e altrettante famiglie, quindi raddoppiamo il dato delle famiglie, quindi parliamo di quasi il 50% della popolazione italiana, di tornare in classe con almeno qualche parametro di sicurezza. Non è come quando si va in spiaggia o quando si va in discoteca, ci sono responsabilità individuali. Sì. Qui invece è un contesto istituzionale, è come quando si entra in un ministero, in un ufficio pubblico, alle Poste, come quando il presidente Mattarella ha celebrato quel meraviglioso concerto a Bergamo. Li abbiamo viste tutte le distanze tra i presenti e anche nell'attività dell'orchestra. È un contesto istituzionale dove il soggetto deve evitare che ci sia una possibile epidemia. Prego. Che vogliamo tornare a scuola. I nostri iscritti ci scrivono che basta con questa didattica a distanza, perché la presenza per noi è fondamentale. Sì. Quindi l'obiettivo vostro è tornare il 14 settembre in classe. L'obiettivo in classe. Mi sembra condiviso tra voi, il governo e le famiglie. Sì. L'ipotesi, quella che poi è di fatto una decisione del Ministero, di poter supplire almeno parzialmente a questa situazione di difficoltà con studenti non laureati in cattedra, si parla ovviamente delle primarie, Gissi, non penso che nessuno pensi alle medie o alle superiori di mettere studenti non laureati, è un'ipotesi che potrebbe essere valida? È un'ipotesi residuale ed è un aspetto che noi come CISL Scuola abbiamo anche sostenuto. Non nomineranno sicuramente i laureandi prima degli laureati, ma come è già avvenuto, come lei accennava, in alcune realtà, specialmente del nord, non c'è personale in graduatoria disponibile, almeno fino allo scorso anno non ce n'era. E si chiamava chiunque, dall'insegnante tecnico pratico con diploma dell'agrario all'architetto. L'importante è avere qualcuno che in quel momento si era reso disponibile per un insegnamento. Quindi ben venga più un laureando che almeno ha tutto il servizio, diciamo, e anche i crediti formativi previsti dal corso universitario in regola, e probabilmente almeno avrà letto della Montessori o avrà anche analizzato Gardner o Piaget. Credo che qualche studio più pedagogico lo abbia fatto un laureando. Poi chiaramente questo non deve essere un modello organizzativo definitivo, speriamo solo che ci siano le condizioni per discutere con l'università su come ampliare anche la sfera per scienze della formazione primaria e costruire le condizioni per aumentare il numero dei laureati. Gizzi, secondo lei Azzolina ha gestito bene questa situazione o, come dice l'opposizione, si è dimostrata incapace? Innanzitutto a livello personale, i livelli personali io non faccio valutazioni. A livello è un livello, quello che le chiedo è un livello come ministro. Come il ministero ha mostrato una lentezza e una faraginosità incredibile. E anche ha mostrato di essere vincolata alle indicazioni, ai diktat di partito, che spesso sono più ideologici che anche pratici, quindi si è fatta trascinare da questi diktat, probabilmente anche lei ne aveva di suoi per esperienze pregresse, e il ritardo è insormontabile. Credo che la questione del 14 settembre sarà per noi un non voglio pensare, ma un 11 settembre italiano per la scuola, perché quando arriveranno, spero, in classe i ragazzi, i dirigenti potrebbero anche trovarsi, non solo nella secondaria, a dover scegliere: facciamo i turni, togliamo il tempo scuola, ridimensioniamo l'offerta formativa, perché non ci sono arrivate le risorse aggiuntive. Grazie. Non abbiamo gli spazi. Dobbiamo chiudere. Grazie Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola. GR24, ci troviamo subito dopo con la rassegna stampa. Un sacco di cose, questa storia dell'omicidio stradale e non solo, anche altre cose da non far vedere a Mark Rutte. Gli autisti dell'AMA, l'azienda municipalizzata dei rifiuti di Roma, in vacanza e i rifiuti restano per la strada. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.